Io direi che possiamo cominciare. Oggi abbiamo un cambiamo tema. Passiamo dall'area mistico-religiosa all'area profana-economica e abbiamo una relazione del dottor Podestà che viene dall'Università Bocconi, abbiamo una relazione sul problema economico, vale a dire sugli investimenti italiani nella colonia Eritrea. Parola al professor Podestà, dottor Podestà. Grazie, professore. C'è una traduzione, c'è come sempre la traduzione del sommario della relazione in lingua tedesca per gli amici tedeschi. Scusa. Sì, una brevissima premessa per indicare come è articolata la mia relazione di questo pomeriggio. Essa è in ordine cronologico, tuttavia al suo interno io ho individuato quattro fasi. La prima, quella che ho denominato dell'espansione commerciale, che va grosso modo dagli anni 70 fino al 1884, alla conquista militare di Massawa. La seconda è quella della cosiddetta colonia militare, dal 1885 al 1897. La terza fase è quella dell'avvaloramento, della valorizzazione delle colonie, così come la definivano in Italia al governo, e va dal 1898 alla Prima Guerra Mondiale. Dedicherò anche uno spazio alla Prima Guerra Mondiale, perché è un periodo molto importante per il nostro colonialismo. Dopo questa breve premessa, volevo ricordare un antefatto. I primi interessi coloniali dell'Italia sono certamente nati in relazione all'apertura del canale di Suez, che è stato un evento sconvolgente per l'economia mondiale e soprattutto per il mare Mediterraneo. Già negli anni 50, quando ancora l'apertura del canale era lontana, sarebbe avvenuta solo nel 1869, in Italia era sorta una vasta letteratura politica, economica, storico-geografica, secondo la quale l'apertura del canale avrebbe potuto riportare la nostra penisola a quella funzione di intermediaria commerciale fra l'Oriente e l'Europa centro-occidentale. Tipicamente si ci riferiva all'esempio della Repubblica di Venezia negli anni d'oro. In effetti furono anche varati alcuni provvedimenti legislativi per dotare le ferrovie e alcuni porti italiani, in special modo sull'Adriatico a Brindisi, delle infrastrutture necessarie a sostenere un aumento del traffico. Non solo. Anche la marina mercantile doveva avere un ruolo abbastanza importante in questa strategia economica commerciale. Vi ricordo che sono gli anni d'oro del libero scambio. Anche per la marina mercantile il canale di Suez ha un'importanza decisiva, perché afferma definitivamente la prevalenza della navigazione a vapore sulla navigazione a vela. Questo perché, come è noto, la zona del canale è priva di correnti che possano spingere la marineria velica. In Italia vi fu un armatore, soprattutto, che intuì fin da principio queste trasformazioni. Quest'uomo è noto a tutti, è Raffaele Rubattino, il quale fra l'altro aveva avuto un ruolo molto importante anche nel nostro Risorgimento. E grazie anche a questo godeva di una serie di importantissime amicizie a tutti i livelli dirigenziali. Lui fu il primo a intuire le possibilità economiche offerte dalla zona del canale e inaugurò una linea diretta con l'India, la Genova, Alessandria d'Egitto, Bombay. Questo nel 1869. Naturalmente Rubattino desiderava fortemente ottenere dal governo una sovvenzione economica che gli permettesse di continuare l'esercizio di questa linea marittima. Ecco che in tal modo la questione di Assab viene a intersecarsi con le necessità di questo armatore. Già prima della costituzione dello Stato unitario nella Cancelleria degli Esteri del Regno di Sardegna, si era ventilata l'ipotesi di fare qualche tentativo commerciale nel Mar Rosso grazie ad alcune lettere che il Vescovo Massai, ricordato dal professor Fonzi, aveva spedito al Ministero degli Esteri del Regno di Sardegna. Ce n'è una molto famosa di Cavour indirizzata a Costantino Nigra che gli prospetta questa ipotesi in funzione dell'apertura del canale. E quindi Rubattino si prestò ben volentieri a fungere da prestanome dello Stato italiano perché nell'acquisto della Baia di Assau, proprio perché lo Stato nazionale voleva evitare controversie diplomatiche con le altre nazioni presenti nell'area, con la Francia e con la Gran Bretagna. Questo breve antefatto che vi ho raccontato prima dell'inizio della mia relazione è per dimostrare che anche il primissimo acquisto della Baia di Assab in effetti ha alcuni riferimenti all'economia. La nuova fase dell'economia mondiale, apertasi dopo la crisi del 1873, meglio nota come la Grande Depressione, è caratterizzata dall'adozione generalizzata del protezionismo doganale. Lo sviluppo economico registrato da alcuni settori della nostra industria, in particolare dal comparto cotoniero, a cavallo degli anni 70 e 80, unite alle ambizioni espansionistiche dei governi nazionali e al timore di restare esclusi dalla spartizione dell'Africa, furono i fattori che fra il 1878 e il 1884 determinarono l'elaborazione di un cauto programma di espansione coloniale, che avrebbe dovuto essere realizzato mediante la penetrazione commerciale in alcune aree del Nord Africa, Tunisia e Tripolitania e Cirenaica e Mar Rosso. I vettori ai quali venne affidata tale politica furono la Marina Mercantile e alcune società geografiche e commerciali al cui interno erano presenti più svariati interessi sia di natura mercantile che scientifica. Naturalmente Rubattino ebbe un ruolo di primissimo piano nel far ritornare alla ribalta della politica nazionale la questione di Assab. Le truppe egiziane nel decennio intercorso fra il 1869 e il 1878 avevano rioccupato Assab vantando che Rubattino non aveva il diritto di acquistare da un sultano locale quella località. Il ristabilimento della piena sovranità italiana su Assab costituiva infatti una premessa indispensabile per operare un'eventuale penetrazione in Abissinia. Ed ancora una volta i piani dell'armatore, i piani imprenditoriali, convergevano con gli interessi della politica nazionale in quest'area. L'armatore infatti aveva deciso di concentrare la strategia economica della sua società soprattutto nel Levante e nel Mar Rosso. Erano ancora lontani i tempi in cui le grandi società di navigazione nazionale avrebbero goduto di grandi redditi, soprattutto per la navigazione transoceanica degli emigranti verso l'America Latina e l'America settentrionale, che verrà dopo gli anni Ottanta e si intensificherà soprattutto dagli anni 90 in poi. In particolare Rubattino intendeva ottenere l'ausilio del governo per un progetto che gli stava particolarmente a cuore, cioè l'istituzione di una linea circolare da Suez a Jeddah, Suakin e Massawa, che avrebbe dovuto porsi in concorrenza con altre società di navigazione estere in un'area resa particolarmente allettante dal trasporto dei pellegrini alla Mecca. Ed in effetti l'armatore riuscì ad istituire questa linea di navigazione, tuttavia fu soccombente di fronte alla concorrenza delle altre linee marittime francesi, egiziane ed inglesi, e quindi la linea si inaugurò nel 1878, ma già nel 1881, nonostante un suo disperato tentativo di ottenere una sovvenzione dal governo, dovette chiuderla. Rubattino ebbe un ruolo assai importante anche nel coadiuvare l'azione espansionistica dei nostri governi nel Nord Africa, sia mediante l'istituzione di alcune linee di navigazione che avrebbero dovuto intensificare i rapporti commerciali fra l'Italia, la Tunisia e le sponde della Tripolitania e la Cirenaica, sia fungendo da prestanome in una famosa operazione, l'acquisto della ferrovia Tunisi-La Goletta, un atto ritenuto indispensabile per aumentare l'influenza italiana nel paese. Siamo negli anni fra il 1879 e il 1881 ed in Tunisia c'è un sordo conflitto fra la diplomazia francese e la diplomazia italiana, che alla fine sarà soccombente, per acquisire maggiore influenza in questo paese. Per valorizzare il possedimento italiano sulla costa del Mar Rosso, a Sabbe, furono organizzate anche alcune spedizioni che avrebbero dovuto valutare le prospettive commerciali dei vari mercati abissini e individuare una strada percorribile con sicurezza dalle carovane fra la Sabbe e l'interno. Nel frattempo il governo avrebbe dovuto varare tutta una serie di provvedimenti legislativi per dotare a Sabbe delle infrastrutture portuali necessarie a sostenere il commercio e a dotare anche la baia di quelle infrastrutture per rifornire le navi italiane che vi si sarebbero fermate. Tuttavia la maggior parte di questi provvedimenti rimasero lettera morta. E già dal 1882-83 Assab perse progressivamente valore nel nostro dibattito coloniale, fino a che l'occupazione di Massawa lo relegò su uno scenario di secondo piano. Importanti dal punto di vista economico sono le iniziative allestite dalla Società d'Esplorazione Commerciale in Africa, fondata a Milano nel 1879, con il contributo determinante di Manfredo Camperio, direttore dell'Esploratore, giornale di viaggi e di geografia commerciale, rivista creata proprio allo scopo di spronare gli imprenditori italiani a intraprendere una politica mercantile più audace sui mercati esteri. Infatti, la crisi del 1873 e la depressione economica ad essa seguita erano state determinanti nell'indurre molti dei più importanti operatori economici lombardi a riunirsi nell'anno precedente per organizzare una spedizione commerciale nello Shoah, il cui re è il famoso Menelik. Questa spedizione doveva sondare le prospettive economiche di questa regione, sia per valutarne le possibilità di eventuale accoglienza di merci italiane, sia soprattutto per valutarne la ricchezza di materie prime. Già agli albori della nostra industrializzazione, gli industriali riunitisi in questa società d'esplorazione commerciale giudicavano l'espansione commerciale un fattore indispensabile, assieme naturalmente al protezionismo doganale che in questa fase è adottata dalla maggior parte dei grandi paesi europei, Olanda e Gran Bretagna escluse. Un fattore indispensabile per spezzare la soverchiante concorrenza estera e per consentire un graduale sviluppo dell'industria nazionale. Questo è un tema ricorrente nell'espansionismo economico italiano da questi anni fino alla Seconda Guerra Mondiale. Ciò è efficacemente testimoniato dalle parole pronunciate da Giovanni Battista Pirelli, allora giovane imprenditore appena laureatosi al Politecnico di Milano, fondatore della Pirelli, la prima industria della gomma italiana, proprio durante l'assemblea che doveva sancire la costituzione della società. Assemblea che vide la partecipazione dei più importanti imprenditori e finanzieri lombardi, fra cui spiccavano Carlo Erba, il famoso industriale farmaceutico, Giulio Bellinzaghi e Piero Brambilla, due famosi banchieri privati dell'epoca, entrambi forti azionisti della Banca Nazionale, che era il principale istituto di emissione del nostro paese, Luigi Canzi, che ho già ricordato in un mio intervento, ex garibaldino, deputato ed imprenditore molto importante, Gondrand, il fondatore della famosa casa di spedizione, e Ernesto Turati, un pioniere dell'industria cotoniera lombarda. Pirelli esordì affermando che l'iniziativa milanese non poteva essere fine a se stessa, ma doveva costituire il fondamento di una durevole espansione economica italiana all'estero, modellata sull'esempio delle altre nazioni europee. Era ormai accertato che la generale crescita della produzione industriale nei paesi sviluppati determinava ciclicamente delle gravi crisi di sovrapproduzione causate dall'inasprimento della concorrenza, dalla limitatezza dei mercati interni e soprattutto dall'ancor basso tenore di vita di gran parte della popolazione. Ciò poteva arrecare danni gravissimi all'economia delle nazioni europee e soprattutto contribuire ad aggravare i contrasti sociali al loro interno. L'unica soluzione era dunque quella di aprire nuovi mercati, ove riversare una parte della produzione industriale e trarre a basso costo le materie prime ad essa indispensabili. E, concludeva Pirelli, anche una nazione come l'Italia, pur dotata di un apparato industriale ancora limitato, se voleva progredire economicamente e socialmente, non poteva sottrarsi a questa imperiosa necessità. Tuttavia, fra i soci fondatori non vi era unanimità di giudizi circa la missione che la nuova associazione avrebbe dovuto svolgere. Canzi auspicava che dopo una prima fase di carattere sperimentale essa acquisisse anche un ruolo di gestione, di amministrazione degli eventuali possedimenti che l'Italia avrebbe avuto nel Mar Rosso, sul modello delle compagnie che stavano sorgendo un po' dappertutto in Europa in questo momento. Camperio, invece, intendeva mantenere alla società una vocazione soprattutto esplorativa. La società avrebbe dovuto essere un po' il supporto del commercio italiano all'estero, una sorta di istituto per il commercio estero ante litteram, perché il Camperio aveva già individuato l'area e l'America Latina come un potenziale bacino di esportazione del nostro paese. E dunque il primo statuto fu un compromesso fra queste due tendenze. La società avrebbe avuto un carattere soprattutto esplorativo, anche se avrebbe potuto praticare anche attività mercantile. Gli eventuali utili però non erano distribuiti, ma erano destinati ad un fondo per incrementare l'attività dell'associazione. Inoltre l'associazione avrebbe inaugurato un museo commerciale e avrebbe svolto un ruolo di supporto informativo per tutti quei commercianti che intendessero intraprendere un'attività commerciale nelle regioni tropicali del globo. Questa associazione ha un significato rilevante non tanto per i risultati delle sue operazioni, pressoché nulli dal punto di vista pratico, quanto al fatto che l'imponente adesione ad essa dei più importanti esponenti della classe imprenditoriale lombarda rivela, a mio avviso, una precoce sensibilità di queste forze ai temi dell'espansione economica e coloniale. Anche se si sarebbe verificato si sarebbero verificati frequenti abbandoni, il gruppo degli industriali, soprattutto cotonieri e chimici, avrebbe rappresentato sempre la categoria sociale più numerosa fra gli iscritti. Naturalmente, i fattori che sarebbero stati determinanti nell'indirizzare precocemente alcuni settori industriali verso l'espansione commerciale erano certamente già evidenti, seppur solo in embrione, a partire dalla fine degli anni 70, ma avrebbero in realtà acquistato reale vigore soprattutto nel corso del periodo 1896-1914, al quale tradizionalmente si fa riferimento per il primo decollo industriale italiano. Ciò è vero soprattutto per il comparto cotoniero. In questo settore, che scontava la limitatezza del mercato interno, causata sia dal basso potere d'acquisto di gran parte della popolazione, sia dalla lentezza con cui le varie aree italiane si stavano integrando in un mercato unico nazionale, nonché dal costo delle materie prime. Quasi il cotone greggio arrivava sostanzialmente in massima parte dagli Stati Uniti ed era molto influenzato dal corso dei prezzi. e questo era un fattore che a giudizio degli industriali cotonieri limitava fortemente la loro possibilità di concorrere con le industrie degli altri paesi. Già all'epoca dell'inchiesta industriale, all'inizio degli anni 70, alcuni industriali, fra cui Eugenio Cantoni, avevano rivelato di aver compiuto alcuni esperimenti di esportazione verso alcune aree asiatiche, africane e dell'America Latina. I cotonieri Caprotti di Bergamo, altri pionieri della nostra industria cotoniera, negli stessi anni tentarono a più riprese di penetrare commercialmente sui mercati africani del Mar Rosso. Chimici come Carlo Erba e Giovanni Battista Pirelli erano invece molto interessati al problema delle materie prime, destinate all'industria farmaceutica del primo e all'industria della gomma del secondo. A tale riguardo va segnalato che in Italia in quel periodo si credeva correntemente che queste regioni del Mar Rosso fossero particolarmente ricche di queste materie prime. Onorato Caetani, presidente della Società Geografica, nel 1879 aveva inviato una relazione al Ministero degli Esteri nella quale, oltre a passare in rassegna le varie merci e le condizioni economiche dei principali mercati abissini, aveva dichiarato che in quelle regioni si coltivava il cotone e che le foreste avrebbero potuto essere inesauribili sorgenti di straordinaria ricchezza sia coi prodotti delle piante gommifere e medicinali sia col taglio di legnami di varia specie. A questo punto volevo aprire un inciso, ma siccome vi ho già fatto riferimento in un mio intervento sul problema di tradizionalmente la storiografia italiana ha sempre dato una connotazione anticolonialista al mondo imprenditoriale lombardo. In realtà io ho già introdotto nel mio intervento dell'altro giorno la distinzione fra penetrazione economica o commerciale e la vera e propria politica di conquista territoriale. Ed è proprio al modello della penetrazione economica al quale deriva gran parte di questi industriali e anche la maggior parte del ceto politico settentrionale. Per essi l'espansionismo coloniale rivestiva un evidente interesse economico o pratico, come si diceva allora. Le colonie dovevano necessariamente fruttare dei benefici alla madrepatria, realizzabili soprattutto mediante l'incremento del commercio. Al contrario, le conquiste militari erano di esito incerto, aggravavano il bilancio dello Stato e soprattutto compromettevano irrimediabilmente la possibilità di accrescere le relazioni mercantili con quelle regioni. Ed è estremamente significativo, a mio avviso, che in questi anni l'interesse per l'espansione coloniale è assai più vivo nelle regioni settentrionali, Lombardia e Liguria, piuttosto che nelle regioni del Meridione. E in queste regioni comincia già a delinearsi il triangolo industriale, già a metà degli anni 70. Naturalmente non tutti attribuivano alla rinuncia di operare conquiste un significato assoluto. Molti di questi pensavano che la penetrazione commerciale fosse il miglior modo, costituisse la premessa per un'eventuale futura conquista quando il nostro paese ne avesse avuto i mezzi, sia militari che finanziari. In seguito molti di questi industriali e politici si sarebbero riconosciuti nella politica di Francesco Crispi. Tuttavia, sulla politica di coloniale di Crispi, essi avrebbero sempre mantenuto una posizione di assoluto rifiuto. Luigi Canzi, per esempio, deputato, più tardi senatore, che era un po' il capo del partito crispino a Milano, sarebbe sempre stato contrario al leader siciliano proprio su questi punti. I risultati della spedizione organizzata in Abissinia non furono brillanti, ciononostante la società non rinunciò ai tentativi di penetrazione. A questo fine furono fondate alcune agenzie commerciali sui mercati che si ritenevano più promettenti, Massaua, Odeida, Zanzibar e Khartoum. Tuttavia all'interno dell'associazione era sempre più aspro il dibattito fra coloro che propugnavano una pura azione esplorativa e coloro che invece volevano accentuarne gli aspetti economici e commerciali. Camperio era il principale esponente della prima tesi. Fra l'altro Camperio in questi anni abbandona un po' i sogni di espansione nel Mar Rosso perché si è reso conto che l'area non avrà un brillante futuro economico. Egli si era infatti impegnato a organizzare con Rubattino la penetrazione economica in Tripolitania e Cirenaica. Aveva compiuto un viaggio di studi, al suo ritorno aveva anche pubblicato un'opera nel quale magnificava il futuro economico, soprattutto della Cirenaica, e aveva stilato addirittura un programma di colonizzazione agricola del Jebel, quello che sarebbe poi stato realizzato a partire dagli anni 30 dai nostri coloni. E addirittura, sì, la società, oltre ad aprire due agenzie commerciali in Cirenaica, chiese anche al governo ottomano la concessione di 100.000 ettari proprio per intraprendere un primo programma sperimentale di coltivazione agricola che avrebbe richiamato un numero discreto di emigranti italiani. Per rafforzare l'azione italiana nel Mar Rosso, allora fu fondata nel 1880 un nuovo ente di carattere puramente mercantile, sotto forma di anonima, la Società Italiana per il Commercio con l'Africa. Oltre a tutti quegli uomini rappresentanti del ceto imprenditoriale lombardo, vi hanno partecipato, i maggiori nomi dell'industria e della finanza italiana. In particolare, per la prima volta anche alcuni istituti di credito parteciparono direttamente a un'iniziativa di carattere coloniale che non aveva fini esplorativi e scientifici, ma esclusivamente economici. In particolare la Banca Generale, che era il secondo istituto di credito ordinario italiano, e la Banca di Credito Italiano, una banca di Milano che era però una piccola banca d'affari, la quale però era strettamente controllata dalla Società Generale di Credito Mobiliare, che era la più importante banca ordinaria del nostro paese. Tuttavia, entrambe le società fallirono nei loro sforzi di penetrazione economica, la prima soprattutto a causa dell'ostilità delle autorità ottomane che ne sabotarono ogni iniziativa. La seconda si scontrò con le difficoltà oggettive dei mercati sui quali operava, oltre ad aver compiuto anche alcuni errori di gestione che la condussero ad avere perdite per oltre 130.000 lire già nel primo esercizio. Si noti tuttavia che il prezzo delle materie grigie importate era in progressivo calo sui mercati mondiali. La società di Rubattino, l'armatore genovese fra l'altro era uno dei principali azionisti di questa società commerciale, aveva sospeso i suoi servizi marittimi nel Mar Rosso, per cui mancava ogni collegamento diretto fra l'Italia e queste regioni. Fra l'altro Rubattino sarebbe morto nel settembre 1881, la sua società in pratica sarebbe stata controllata dalle principali banche italiane, perché Rubattino aveva accumulato moltissimi debiti. Banche italiane che poi avrebbero operato la fusione fra la società di Rubattino e la società Florio, le due principali società di navigazione italiana, fino a costituire la Navigazione Generale. Un altro grave ostacolo era stato quello che si era verificata in pratica l'impossibilità di penetrare con i filati italiani in queste regioni, perché la concorrenza britannica era sovrastante in quest'epoca. Perciò gli azionisti ne decisero lo scioglimento già nel 1882. Tuttavia ciò non significò l'abbandono delle attività economiche in questa zona. Alcuni delegati rilevarono le agenzie create dalla società e intrapresero delle attività personali particolarmente lucrose per alcuni. Probabilmente l'individualismo in queste regioni pagava più di un'attività esercitata mediante una società anonima che aveva la propria direzione a Milano. Per esempio ricordo Tagliabue e Caprotti a Massaua, Filonardi a Zanzibar, che poi troveremo più oltre, Micheli a Khartoum, Mazzucchelli a Hodeida. Il fallimento delle prime imprese commerciali e il nuovo indirizzo annessionistico della politica coloniale sancirono la conclusione della penetrazione economica e sopirono alquanto gli iniziali entusiasmi degli imprenditori settentrionali per le questioni coloniali. Peraltro, la sempre più netta evoluzione della politica coloniale in senso militaristico e il pressoché continuo stato di guerra con l'Abissinia resero praticamente impossibile qualunque tentativo di usare la colonia come base per l'espansione commerciale nazionale, intralciarono anche qualsiasi investimento industriale volto a valorizzare le non straordinarie risorse della nostra colonia. In effetti, per incrementare il commercio di Massawa si sarebbe fatto molto poco fra il 1885 e il 1897. Gli scambi erano assai modesti, limitandosi in particolare all'importazione destinata alle truppe coloniali e ai cereali destinati alle popolazioni eritree, cereali che non erano prodotti in sufficienza nella colonia, e a pochi altri articoli, tessuti, liquori, utensili. Gli articoli principali di esportazione erano la madreperla pescata nelle isole Dalak, l'arcipelago che fronteggia la costa di Massawa, le pelli gregge provenienti dalle regioni interne dell'Africa, l'avorio e lo zibetto. Lo zibetto è una sostanza di origine animale che all'epoca era molto diffusa per la fabbricazione delle essenze e dei profumi. Grosso modo le importazioni erano in leggera ascesa durante il dominio italiano. Dagli 8 milioni del 1887 si era passati agli 11 del 1889. Tuttavia le importazioni dall'Europa costituivano una quota modestissima, l'8,7%, anche se in costante e progressiva ascesa. La maggior parte proveniva dall'Asia, in particolare da Aden, oltre il 50%, dall'interno dell'Africa 21%. Anche tessuti e filati di cotone provenivano quasi esclusivamente da Aden ed erano di matrice indiana o britannica, l'81%, e dall'Egitto, 13%. Una cosa molto interessante è che dall'Asia proveniva anche la gran parte dei generi alimentari necessari a soddisfare i consumi delle truppe italiane e indigene. Il 98,9% delle granaglie e della dura, che è un cereale locale. Il 99% del riso e il 72,8% della farina. Chi traeva giovamento da questa situazione erano alcune società commerciali di Massawa e di Aden, alcune delle quali gestite da italiani, il più famoso è Tagliabue, gli altri sono, la più famosa delle altre ad Aden è gestita dai fratelli Giuseppe e Vittorio Bienefel, due triestini. Giuseppe era anche console onorario italiano ad Aden. Quindi il commercio nazionale non aveva tratto alcun giovamento dall'istituzione della colonia. Non era stato fatto nulla per promuovere la costruzione delle infrastrutture indispensabili a sviluppare le comunicazioni fra l'interno e la costa e per intensificare i servizi marittimi fra l'Italia e l'Eritrea. La ferrovia Massawa-Sati era stata costruita per le necessità della spedizione militare comandata dal generale San Marzano, era lunga solo 27 chilometri ed era usata prevalentemente per il trasporto delle derrate alimentari e dei materiali destinati alle truppe. Dal capolinea della ferrovia si inerpicava su per il Ciglione che conduceva da Asmara all'altipiano una strada assai ripida costruita dal genio militare, che era più simile a una mulattiera piuttosto che a una strada autentica, e questa era l'unica vera via di comunicazione della colonia. Nel resto del territorio le comunicazioni si dovevano svolgere solo coi cammelli o coi muletti abissini sulle piste più impervie. Questo naturalmente, oltre ad aggravare i costi, limitava anche la possibilità di trasportare macchinari ingombranti. Ma le note dolenti venivano soprattutto dalle comunicazioni marittime. Salvo i piroscafi che il governo noleggiava per le esclusive esigenze dell'esercito e dell'amministrazione, non esistevano comunicazioni marittime dirette fra la colonia e l'Italia. C'era un servizio sovvenzionato della navigazione generale, il quale però prevedeva il trasbordo fra Alessandria d'Egitto e Porto Said e Suez. Evidentemente questo aggravava moltissimo i costi del trasporto di eventuali merci. Oltretutto le merci giacevano spesso, dovevano fare un tratto in treno fra Alessandria e il canale e questo per merci deperibili aveva delle conseguenze assai gravi. Paradossalmente ad approfittare di questa situazione erano state alcune società commerciali austriache che dopo l'occupazione militare italiana, giovandosi di una linea diretta fra Massawa e Trieste, gestita da Lloyd austriaco, avevano quadruplicato i loro traffici commerciali con il porto eritreo. Si noti che, in virtù di un decreto legge già del 1886, le merci italiane erano esenti dal pagamento di dazi doganali quando erano importate a Massawa. Io sospetto quindi che l'amministrazione coloniale italiana tutto sommato non facesse molto per promuovere il commercio fra Italia e colonia, proprio perché gli introiti doganali costituivano un cespite abbastanza importante dell'erario dell'Eritrea. Un altro grave intralcio allo sviluppo del commercio e dell'industria era costituita dalla totale assenza di istituti di credito. Chi voleva intraprendere attività commerciale o industriale nella colonia doveva rivolgersi esclusivamente o a banche inglesi sulla piazza di Londra che corrispondevano con alcune banche anglo-indiane che avevano la filiale ad Aden. E questo naturalmente aumentava i costi. Oppure usufruire del credito fornito da alcune società commerciali e da alcuni privati a tassi estremamente onerosi, naturalmente. Né la situazione sarebbe migliorata di molto nel breve periodo. Tuttavia, alcuni imprenditori, non so se più incoscienti o dotati di grande coraggio, presentarono alle autorità politiche e militari una serie di progetti di investimenti volti a valorizzare l'economia della colonia. Due erano i settori di maggiore attrazione: la pesca della madreperla e la produzione del sale. La prima era svolta dai pescatori eritrei che poi la conducevano a Massawa e di qua veniva in pratica accaparrata dalle società commerciali austriache e condotta a Trieste. Veniva utilizzata in gran parte da alcune fabbriche viennesi per la costruzione di bottoni, utensili, eccetera. Si noti che fin dal 1885 il generale Genet aveva fatto compiere alcuni studi per valorizzare questa produzione. La produzione del sale invece era favorita dalle condizioni naturali del Mar Rosso. Ad Assab era già stato compiuto un primo tentativo ad opera di un imprenditore italiano, Guastalla, che aveva già in gestione le saline di Aden, nelle quali aveva investito ben 20.000 sterline. Tuttavia, ad Assab il tentativo non riuscì perché il presupposto necessario per assicurare redditività all'impresa era l'esportazione. Senza collegamenti marittimi, Guastalla non riuscì ad esportare sale in altre regioni, per cui liquidò la società dopo pochi anni. Anche in questo caso furono le autorità militari, fin dal 1887, a individuare la possibilità di sfruttare industrialmente le saline naturali di Massawa. Il generale Baldissera aveva inviato un'accurata relazione al Ministero della Guerra e al Ministero degli Esteri, nel quale diceva che il sale di Massawa avrebbe potuto essere esportato sia in Abissinia, anche se questo per il momento era precluso dallo stato pressoché continuo di guerra, sia soprattutto in India. Tuttavia, i vari progetti presentati da privati, tesi come erano ad ottenere condizioni di monopolio, sia per la pesca della madreperla, sia per la produzione e lo smercio del sale, furono osteggiati a più riprese dalle autorità militari, le quali temevano che l'irruzione di compagnie capitalistiche nel Mar Rosso avrebbe danneggiato irrimediabilmente le popolazioni locali e questo avrebbe potuto aggravare le condizioni politiche della colonia. Barattieri in particolare fu assai reciso verso alcuni progetti presentati per la costituzione di una società perlifera italiana. Solo Martini nel 1898 avrebbe finalmente accordato una concessione a questa società. Nel 1893, come ho ricordato in un mio intervento il primo giorno, l'amministrazione eritrea aveva affidato il monopolio del sale a una società mista italo-eritrea, composta da un imprenditore italiano che aveva fatto fortuna in Egitto e nel Sudan del Mar e dai fratelli El Ghul, importanti commercianti di Massawa. Tuttavia anche questa società durò solo pochi anni perché le spese erano eccessive. Questa società doveva far sorvegliare le saline naturali perché le popolazioni eritree erano solite rifornirsi senza che nessuno gli precludesse la presa del sale. Altre iniziative economiche di minor rilievo erano legate alle forniture militari e riguardavano i materiali da costruzione, la fabbrica del ghiaccio e i mulini. Anche l'industria nazionale si era scarsamente giovata dei possedimenti coloniali, escluse la navigazione generale e la Pirelli. La prima, oltre a ricevere una lauta sovvenzione, 480.000 lire per la linea sovvenzionata, si giovava dei trasporti eccezionali all'epoca delle campagne militari. Nel 1887, 1888 e 1895-96 il corso delle azioni della società di navigazione in borsa subiscono un'impennata proprio in previsione dei grandi redditi che le sarebbero derivati dal noleggio dei piroscafi per le spedizioni militari. La seconda, la Pirelli, percepiva un canone annuo di oltre 200.000 lire per la posa e la manutenzione del cavo telegrafico fra la colonia italiana e il cavo telegrafico internazionale che collegava il Mar Rosso all'Europa. Un altro ostacolo a ogni progetto di valorizzazione fu probabilmente determinato dal fatto che il programma di colonizzazione agricola di Stato elaborato da Leopoldo Franchetti non era favorevole agli investimenti capitalistici. Franchetti e Sonnino, fedeli alle loro tesi elaborate già fin dagli anni 70 sull'agricoltura meridionale, intendevano formare nella colonia una classe di contadini proprietari al fine di potervi indirizzare una quota anche minima degli emigranti nazionali. Perciò entrambi osteggiarono per lunghi anni qualsiasi investimento di carattere capitalistico in Eritrea. In realtà non era mai stato intrapreso alcun serio programma di studi per valutare le effettive potenzialità dell'agricoltura eritrea. I progetti di colonizzazione si basavano soprattutto sulle impressioni personali dei viaggiatori italiani, sulle coltivazioni praticate dagli indigeni, sull'esempio di quanto stavano compiendo i coloni delle altre nazioni nelle terre limitrofe e soprattutto su alcuni studi sperimentali compiuti dall'esercito italiano fin dai primi anni della conquista. Baldissera, in particolare, aveva impresso maggior vigore agli esperimenti di coltivazione compiuti dai militari. Nel 1888, per esempio, aveva bandito alcuni premi d'agricoltura per chiunque, indigeno o europeo, intraprendesse nuove coltivazioni e ottenesse dei risultati significativi dal punto di vista economico. E aveva anche provveduto a distribuire attrezzi agricoli ai coloni europei e agli indigeni. La sua intenzione era quella di sviluppare la coltivazione sia di piante tropicali destinate all'industria, tabacco e cotone, sia anche di coltivazioni che potessero rifornire l'esercito per le sue necessità. Fra l'altro, nel 1889, pochi mesi dopo l'occupazione di Asmara, il governo aveva chiesto a Baldissera di impedire eventuali incette di terreni da parte sia di indigeni sia di speculatori europei, proprio in previsione della compilazione di un catasto della proprietà fondiaria che avrebbe dovuto essere utilizzato come base per la futura indemaniazione dei terreni. È il problema al quale accennava il professor Goglia durante il suo intervento lunedì scorso. D'altra parte va riconosciuto che al di là delle intenzioni di carattere umanitario e filantropiche di Franchetti, la colonia mal si prestava a offrire ricetto a quantità cospicue di emigranti. Oltre a ciò, il suo progetto basato sulla piccola proprietà contadina e su una produzione prevalentemente destinata all'autoconsumo, mal si accordava con l'eventuale utilizzo del suolo della colonia per coltivazioni tropicali destinate all'industria, come il cotone, per esempio, la cui coltivazione evidentemente necessitava di fortissimi capitali. Diverso fu il caso del Benadir. Infatti, se per evidenti motivi politici e militari il modello della colonia commerciale era impraticabile in Eritrea, non altrettanto poteva dirsi per i nuovi possedimenti coloniali sulle coste dell'Oceano Indiano. Crispi, fin dal 1889, aveva dichiarato alla Camera che il governo nel Benadir non intendeva ripetere l'esperienza della colonia militare, ma affidarne la gestione a una società commerciale sul modello di quelle inglesi e tedesche. Dietro sua spinta, quindi, in questi anni, fra il 1889 e 90, si intensificarono gli sforzi da parte del Ministero degli Esteri per creare una società italiana per l'Africa orientale, che avrebbe dovuto assumere il governo e l'onere della colonizzazione dei nuovi protettorati italiani. Forse nei sogni di Crispi, in un secondo tempo, questa società avrebbe dovuto allargare i suoi orizzonti nell'ipotesi che si fosse finalmente riuscita a costituire quell'ampio impero da Massawa alle foci del Giuba, che era un po' il sogno dello statista siciliano. Furono interpellate la Navigazione Generale e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia. Quest'ultima, soprattutto, avrebbe dovuto coadiuvare la raccolta del capitale necessario. Tuttavia le trattative naufragarono perché, in un momento, come ho ricordato ieri, di crisi finanziaria molto grave, la banca pretendeva delle garanzie molto onerose, in particolare la garanzia sul capitale impiegato e soprattutto che venisse garantito il frutto del 6% annuo agli azionisti. Quindi il governo rinunciò all'accordo con la banca e si accordò con Vincenzo Filonardi. Quest'ultimo aveva costituito nel 1884 una piccola società in accomandita con il patrocinio del Banco di Roma. Aveva come soci alcuni importanti personaggi della nobiltà romana. Nei primi anni quest'uomo aveva anche conseguito dei validi risultati di esercizio. Tuttavia, a partire dal 1885, era stato anche usato da Crispi come una pedina della diplomazia italiana nell'area dell'Oceano Indiano. L'imprenditore quindi nel 1893 riuscì a costituire una nuova società per assumere l'amministrazione del protettorato. Tuttavia essa non disponeva dei capitali necessari a porre mano ai progetti di colonizzazione che erano previsti dalla convenzione fra il commerciante romano e il governo. Il principale cespite d'entrata, a parte una sovvenzione governativa interamente destinata a pagare il canone annuo al sultano di Zanzibar, che era pari a 300.000 rupie, derivavano solo dagli introiti doganali. Tuttavia, detratte le spese a carico per l'amministrazione, soprattutto le spese militari, la compagnia aveva soldato un centinaio di mercenari arabi per la difesa delle quattro località principali, rimaneva ben poco per realizzare qualsiasi investimento destinato a valorizzare il protettorato. In realtà il governo si era accordato con Filonardi solo perché non aveva alcuna alternativa valida, però fin dai primi momenti aveva cercato una soluzione alternativa. La soluzione gli fu offerta da Antonio Cecchi, il viaggiatore che in questo momento era console, che nel 1895 aveva invitato Giorgio Milius, finanziere ed industriale cotoniero, oltre che membro della società d'esplorazione commerciale in Africa, a compiere un viaggio nel Benadir. Milius vi aveva aderito volentieri perché intendeva valutare se era possibile intraprendere la coltivazione del cotone in questa regione. Al termine del suo viaggio, Milius si disse che le prospettive erano particolarmente favorevoli, soprattutto nella zona dello Shebele. Al contrario, escludeva che il Benadir potesse diventare mercato per l'esportazione di merci italiane. Con il patrocinio di Crispi, quindi, e di Primo Levi, influente direttore dell'ufficio coloniale degli esteri, Milius a Milano incominciò le pratiche per la costituzione di una società anonima. Dopo lunghe e complesse trattative, si addivenne finalmente nella primavera del 1896 alla costituzione della società e alla stipula della convenzione con il governo. Le quote principali erano state sottoscritte da Milius, Ignazio Florio, i Crespi, Bienefeld e dalla Banca Commerciale Italiana perché interveniva per ben un decimo del capitale. Come ho già ricordato il primo giorno, i soci tedeschi della commerciale avevano sottoscritto il 50% del capitale di pertinenza della banca. Comunque il settore più rappresentato fra gli azionisti era quello cotoniero, perché vi erano altri nomi importanti dell'industria cotoniera lombarda. La compagnia si diceva quindi pronta ad assumere la responsabilità del governo del Benadir e a intraprendere quella che il presidente della società, Alfonso Sanseverino Vimercati, che era anche presidente della banca commerciale, definiva come il nuovo modello di colonizzazione, in netta contrapposizione con l'esperienza dell'Eritrea. Vennero inviati un paio di agenti nella colonia che avrebbero dovuto stilare un programma di valorizzazione. In particolare il programma avrebbe previsto la costruzione di alcuni porti, lo stabilimento di regolari comunicazioni marittime e soprattutto una vasta opera di lavori idraulici nella zona del bacino dell'Uebi e Scebeli. Tuttavia la compagnia non disponeva dei capitali necessari a svolgere questo programma e soprattutto gli azionisti furono ben presto disillusi circa la convenienza del loro investimento. Nonostante le sollecitazioni dei dirigenti, infatti, il governo continuava a rimandare la presentazione della convenzione al Parlamento perché ne temeva gli umori anti-africanisti e solo nel 1900 la società sarebbe stata finalmente immessa nell'amministrazione. E questo, come vi ho detto, li contribuì non poco a disilludere gli azionisti. Già nel 1905, infatti, lo Stato riassunse l'amministrazione diretta, poiché l'esperimento fra il 1900 e il 1904 della gestione commerciale non aveva dato i frutti sperati. La società era stata accusata di non aver svolto alcun serio programma di colonizzazione, di essersi limitata a incamerare gli introiti derivanti dalle imposte e dai dazi doganali e di avere anche tollerato il mantenimento della schiavitù. Non vi è dubbio che gli addebiti a suo carico erano sostanzialmente fondati, ma non di meno, a mio avviso, la responsabilità principale del fallimento è da attribuirsi al governo, che era perfettamente consapevole dei limitati mezzi a disposizione della compagnia. Tuttavia, se il Benadir non fosse stato governato in qualche modo, lo Stato italiano avrebbe perso ogni diritto, secondo una clausola della convenzione con il sultano di Zanzibar, ogni diritto di dominio su questo possedimento. Fra l'altro, la società, mediante un'oculata amministrazione delle risorse, la compagnia era riuscita a realizzare degli utili e a distribuire dei dividendi, aveva investito in titoli della rendita italiana. Perciò era stata accusata, era nata una fortissima polemica, era stata accusata di aver avuto degli utili elevatissimi. In realtà, a mio avviso, sempre, io trovo che fosse stata legittima la decisione del Consiglio di amministrazione di rimunerare il capitale, infruttuoso da parecchi anni, e soprattutto era anche l'unico modo per sostenere il corso delle azioni alla Borsa di Milano. Fra l'altro i dividendi erano molto limitati, 2,4%. D'altra parte, al di là di ogni giudizio, l'importanza di questa società è ad attribuirsi al ruolo determinante che i cotonieri hanno avuto nella sua costituzione. Secondo me rappresenta certamente il momento di maggior coinvolgimento del capitalismo italiano nella prima fase della nostra espansione coloniale. Vediamo adesso la colonia Eritrea quando inizia il governo civile. L'alto valore simbolico della sconfitta di Adua fa sì che con essa generalmente vi sia una cesura. Un momento altrettanto significativo è la nomina di Ferdinando Martini a regio commissario civile, in pratica una sorta di viceré italiano. Il nuovo governatore si trovò ad operare in una situazione estremamente difficile, perché i tagli operati dal governo al bilancio coloniale gli lasciavano a disposizione una cifra troppo esigua per poter dotare la colonia di quelle infrastrutture, porto, strade, ferrovie e lavori idraulici indispensabili al suo sviluppo economico. Ciò nonostante, Martini cercò di varare un programma basato soprattutto sulla valorizzazione delle risorse minerarie e agricole. Il settore più promettente sembrava essere quello minerario. Nel 1899 Martini affidò a un ingegnere inglese un programma di esplorazioni per valutare se la colonia fosse dotata di giacimenti auriferi degni di essere sfruttati su larga scala. L'ingegnere inglese disse che effettivamente valeva la pena continuare nelle ricerche e Martini cercò allora in Italia i capitali necessari per costituire una società. Gli furono fatte offerte da due gruppi finanziari distinti. Il primo era capeggiato da un importantissimo finanziere milanese, Felice Scheibler, prestigioso esponente della società bancaria milanese che molti anni dopo si sarebbe trasformata in Banca Italiana di Sconto, e rappresentava la Società per il Commercio con le Colonie, società che si era destinata ad espandere il commercio italiano nel mondo, che si era costituita in quell'anno a Milano, con il contributo del Credito Italiano, della Società Bancaria Milanese e di alcune banche private minori. Fra l'altro, questo gruppo, dopo ADU, avrebbe proposto al Presidente del Consiglio di Rudinì di assumere l'amministrazione della colonia Eritrea secondo il modello delle compagnie reali inglesi. Nell'archivio centrale dello Stato c'è una sorta di patente reale preparata dai dirigenti della compagnia proprio a questo scopo. Essa avrebbe dovuto costruire e valorizzare la colonia mediante una ferrovia da Massau a Cassala, per costruire la quale si contava sull'ottenimento di capitali britannici che invece non aderirono all'offerta, per cui la società, questo gruppo finanziario rinunciò a questa iniziativa. Fra l'altro lo Stato non gliel'avrebbe mai concessa, naturalmente. Il secondo gruppo invece era formato dall'ingegnere Beniamino Nathan, fratello di Ernesto Nathan, amico e corrispondente intimo di Ferdinando Martini. Nathan è inutile che io... è uno dei grandi capi della massoneria italiana, è sindaco, futuro sindaco di Roma, la Vigilia Reale, e da un banchiere inglese, Simon, e si era proprio costituito con il contributo determinante di Nathan. Martini, se la società avesse avuto successo, avrebbe voluto affidarle anche un programma di valorizzazione dell'intera colonia. Alcune considerazioni, non so se di natura economica o anche sentimentale, indussero Martini a preferire la società dei Nathan. Tuttavia Scheibler non si diede per vinto, giovandosi anche di una sua autorevole influenza presso il ministro degli esteri Visconti Venosta, riuscì ad entrare nell'affare anche se con una quota minoritaria. Fu costituita quindi una società che avrebbe iniziato un programma di esplorazione dei giacimenti auriferi e contemporaneamente avrebbe dovuto iniziare la costruzione del primo tronco della ferrovia che dalla pianura avrebbe finalmente condotto ad Asmara. Dopo pochi anni però la compagnia interruppe la sua attività fino a che fu liquidata alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, perché si era riscontrato che non era possibile estrarre industrialmente l'oro eritreo. Si erano costituite sull'onda dell'entusiasmo alcune piccole società gestite da coloni locali, i quali invece ottennero dei risultati significativi perché utilizzavano i sistemi tradizionali arcaici degli indigeni. Un'altra disillusione di Martini fu determinata dalla speranza che le isole Dalak fossero ricche di giacimenti di guano. Un viaggio in colonia di Donegani, l'amministratore della Montecatini, contribuì a fugare ogni illusione. La società perlifera, alla quale ho già fatto riferimento, che era stata creata con il concorso della Banca Commerciale, anche questa avrebbe liquidato le sue attività nel breve giro di 2 anni. Fra l'altro essa aveva portato in colonia un nuovo battello sottomarino che avrebbe dovuto esercitare la pesca della madreperla. Fra l'altro questa società fu anche sfortunata perché la prima volta che il battello sottomarino fu posto in acqua naufragò. L'unico cospicuo successo fu rappresentato dall'industria del sale. Sulla base dei vecchi progetti negli anni 80 fu costituita nel 1905 una società italiana delle saline eritree. I suoi amministratori erano il presidente Allievi, Lorenzo Allievi era un nome di spicco del mondo industriale italiano, e l'amministratore Enrico Aimone era un ingegnere che aveva fatto le sue prime esperienze nelle ferrovie del Congo belga e sarebbe diventato uno degli imprenditori coloniali più fortunati e uno dei massimi esperti dell'economia e delle colonie italiane. Fra l'altro avrebbe fatto parte della sottocommissione per la politica coloniale del dopoguerra. La compagnia, dopo un breve periodo di avviamento, avrebbe incominciato ad esportare cospicue quantità di sale verso l'India e, caso pressoché unico nel panorama degli investimenti coloniali, dal 1911 al 1939 avrebbe pagato cospicui dividendi ai propri azionisti. Il secondo settore di intervento del governatore fu quello agricolo. Abbandonata ormai ogni velleità di colonizzazione agricola con gli emigranti, anche se Martini, probabilmente per convenienza politica, non escluse mai completamente la possibilità, tanto da invitare e accogliere benignamente alcune missioni di studio organizzate quali ho già fatto cenno prima, che ottenne una vasta concessione nella zona di Agordat. La concessione fu dotata di sgranatoi, presse, torni e mulini. Fra l'altro, per trasportare il macchinario a vapore per il mulino, venne impiegato uno speciale carro che doveva scavalcare le varie montagne abissine. Il viaggio ebbe una durata lunghissima e attraversò tutta una serie di eventi inenarrabili. In effetti, nei primi 4 anni la concessione elevò la produzione di cotone da 473 quintali a 5.113, giovandosi anche del contributo determinante degli indigeni d'oltre frontiera, ai quali essa forniva degli anticipi e poi provvedeva a raccogliere il cotone. Tuttavia, anche questa società, dopo alcuni anni, si trovò in una gravissima crisi, per una serie di eventi sfavorevoli, determinati da errori di gestione, pessime stagioni, il flagello delle cavallette che era particolarmente grave in Eritrea, la mancanza di lavori idraulici adeguati in questa zona, ma il colpo finale era determinato soprattutto dal costo dei trasporti. Infatti essa chiuse il suo esercizio nel 1911 perché l'amministrazione militare aveva sequestrato tutti i cammelli esistenti in colonia per destinarle alla guerra in Libia. E quindi questa gli impediva di trasportare, a Gordate è nella parte occidentale della colonia, gli impediva di trasportare il cotone fino alla costa. Un'altra iniziativa importante, legata sempre alle forniture militari, fu di un industriale alimentare Torrigiani che istituì uno stabilimento per la conservazione della carne, fabbricava scatolette di carne destinate ai consumi delle truppe indigene in Eritrea, Somalia, ma soprattutto in Libia. Le truppe indigene avrebbero dato un contributo rilevante sia alla campagna di Libia, sia soprattutto dopo alla repressione della guerriglia. Inoltre in Eritrea, per iniziativa di commercianti locali, venne dotata di piccole industrie indispensabili per soddisfare i bisogni della comunità europea e della popolazione indigena, che era in costante aumento. Mulini, pastifici, oleifici, tipografie, fabbrica del ghiaccio, fabbrica di bibite ed acque minerali. E perfino un piccolo stabilimento per la produzione dell'energia elettrica destinata all'illuminazione di alcuni edifici governativi di Asmara. Una breve spiegazione del fallimento delle iniziative più ambiziose italiane in questo periodo. Innanzitutto la politica della lesina praticata dai governi nazionali che impediva che la colonia fosse dotata delle infrastrutture necessarie. Il problema più grave era quello delle comunicazioni. La mancanza di strade e la lentezza con cui la ferrovia procedeva elevavano a livelli altissimi i prezzi dei trasporti. Il governo sperava nel concorso dei privati, ma è evidente che senza una sovvenzione i privati non avrebbero mai investito capitali. Né era migliorata la situazione del credito. Solo nel 14 la Banca d'Italia avrebbe costituito una sua filiale in Eritrea. Carbone e petrolio avevano prezzi proibitivi e le risorse di legname erano estremamente limitate. Anche il costo della manodopera era particolarmente forte. Personale tecnico europeo evidentemente doveva avere stipendi molto allettanti, ma anche la manodopera indigena era stimolata solo da salari molto alti e inoltre gli indigeni erano scarsamente invogliati al lavoro organizzato di industria. Avevano una scarsa attrattiva e quindi dovevano essere stimolati da salari molto alti. D'altra parte è vero che il capitale investito in queste imprese non era molto ampio. In realtà il capitalismo italiano rimane tuttora scettico sugli investimenti coloniali. Probabilmente solo se si fossero schiusi determinati orizzonti, ovvero sia se si fosse ampliato il dominio finalmente anche all'Etiopia, il capitalismo italiano sarebbe stato invogliato ad aumentare i propri investimenti. L'unico settore nel quale la nostra economia ebbe successo fu quello commerciale. Giovandosi della legislazione doganale favorevole di un leggero miglioramento dei trasporti marittimi, per impulso della Società per il Commercio con le Colonie e di altri spedizionieri, a partire dal 1905 si sarebbe verificato un costante incremento delle esportazioni di tessuto in colonia, sopravanzando la concorrenza britannica e indiana, fino a raggiungere quote di assoluto rilievo proprio alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Più o meno in Eritrea si esportava fra il 5 e il 6% delle esportazioni totali di tessuti di cotone italiano nel mondo. L'Eritrea era il quarto mercato per la nostra industria cotoniera, dopo Argentina, Turchia ed Egitto. Una parte non indifferente era indirizzata alle regioni limitrofe del Sudan e dell'Etiopia, il Tigre particolarmente. Fra l'altro, il successo dei cotonieri va enfatizzato per gli evidenti problemi di trasporto e anche per il fatto che le popolazioni locali erano popolazioni tipicamente preindustriali, per cui risentivano molto dello stato dei raccolti, che, raccolti pessimi per più anni, deprimevano profondamente la domanda. Un aspetto molto importante, che secondo me è poco noto, è la penetrazione economica che gli italiani cercano di attuare in Etiopia in questi anni. Penetrazione che veniva attuata per controbattere l'influenza delle altre potenze, tipicamente l'Inghilterra e la Francia, nel regno di Menelik. Cardini della penetrazione economica furono due trattati di commercio stipulati con l'Etiopia nel 1898 e nel 1906, nonché l'accordo tripartito fra Francia, Gran Bretagna e Italia per la ripartizione delle rispettive zone di influenza, la costruzione di una linea telegrafica che collegava l'Eritrea ad Addis Abeba e l'istituzione di agenzie commerciali a Dadua, Borumieda e Gondar. L'agenzia di entrambi questi atti avevano ottenuto l'assenso di Menelik e avevano evidentemente una duplice valenza, sia politica che commerciale. L'agenzia di Adwa fu un ottimo strumento per aumentare gli scambi commerciali fra il Tigre e l'Eritrea. Si pensi che per aumentare la diffusione dei prodotti tessili nei territori dell'Etiopia, la Società per il Commercio con le Colonie aveva ottenuto da Menelik l'autorizzazione a porre in vendita panni con il nome e il sigillo del Negus e dell'imperatrice Taitu. È anche vero comunque che non era facile stabilire relazioni commerciali durature con le regioni dell'impero etiopico. Fattori di ostacolo erano costituiti dal pessimo stato delle piste percorribili dalle carovane, dalle prepotenze dei ras che spesso taglieggiavano i mercanti e a volte contravvenivano alle stesse raccomandazioni dell'imperatore, dall'elevato numero di barriere doganali poste fra il confine e lo Shoah, ben 12 barriere doganali, dalla concorrenza della ferrovia di Djibouti e dall'unica dogana di Harar sul versante, diciamo così, francese dell'Etiopia, e dall'ancora diffusa ostilità dei ras per la penetrazione straniera. Per ovviare in parte a questi inconvenienti, la stessa amministrazione dell'Eritrea riattò e in parte costruì ex novo, a proprie spese, numerose piste che dal confine conducevano nell'interno. Il fiore all'occhiello fu costituito dalla pista che dal Settit conduceva a Gondar. Un altro strumento di penetrazione fu rappresentato dall'azione di alcune società anonime che avevano ottenuto concessioni di ricerca mineraria nel territorio dell'impero. La prima fu la Società Anonima delle Miniere del Luollega, costituita ad Anversa nel 1901, ben prima quindi che il Banco di Roma incominciasse la sua penetrazione in Libia. Era una società mista italo-belga, il capitale italiano era condotto da Felice Scheibler e ben presto Scheibler rastrellò l'intero pacchetto azionario belga e la società fu di pertinenza totalmente italiana. Un'altra iniziativa fu la società, il sindacato italiano d'Oltre Mareb, che avrebbe dovuto incrementare l'influenza italiana nelle regioni del Tigre. Poco da dire sulla Somalia sotto il governo statale dal 1905, perché sostanzialmente le condizioni della Somalia rimasero estremamente arretrate. Addirittura non si era ancora deciso se costruire il porto a Mogadiscio o a Brava. Poco da dire anche sulla Libia, perché la penetrazione del Banco di Roma è troppo nota, tanto più che la penetrazione era economicamente fu disastrosa ed era avvenuta solo su esplicito invito dei ministri degli esteri italiani, Tittoni e di San Giuliano. L'unica cosa che posso dire è che probabilmente se la conquista della Libia avesse avuto un'evoluzione differente, il capitalismo italiano sarebbe stato più invogliato ad investirvi. Per esempio, alcuni importanti finanzieri elettrici costituirono una società elettrica coloniale già nel 1913. Al suo interno c'erano nomi come Carlo Sterle, il l'amministratore delegato della Edison, il principale gruppo elettrico italiano, Ettore Conti, altro grande imprenditore, Pietro Fanoglio della Banca Commerciale. Concludo con uno sguardo alla Prima Guerra Mondiale. Durante la guerra, l'espansione coloniale è ritenuta negli ambienti politici e militari determinante per il futuro del nostro paese. Due problemi sono all'ordine del giorno: accesso alle materie prime e mercati privilegiati di sbocco per le merci italiane. Ed ecco così che furono creati una serie di iniziative con il patrocinio del Ministero degli Esteri da parte delle nostre banche. La più attiva fu la Banca Italiana di Sconto, la nuova banca creata nel 1914. In particolare essa patrocinò la creazione della Banca dell'Africa Orientale, il primo istituto di credito creato per operare esclusivamente nelle nostre colonie. Una compagnia mineraria coloniale, nel cui consiglio d'amministrazione sedevano pezzi da 90 del nostro capitalismo. Angelo Pogliani, presidente della Banca Italiana di Sconto. Gualino, presidente della società SNIA. E infine Giovanni Agnelli, che è troppo noto a tutti perché io ne faccia menzione. Questa società rilevò un giacimento di miniera di potassio posto a pochi chilometri dentro il confine abissino della Dancaglia. Un altro strumento di penetrazione importante fu la società commerciale Italo-Abissina, creata dal concorso della Banca Italiana di Sconto, Banca Commerciale e Credito Italiano, al cui interno sedevano tutti i grandi capitalisti italiani. Questa società avrebbe dovuto costruire una ferrovia fino a Gondar, valorizzare i terreni circostanti, coltivare il cotone e soprattutto penetrare economicamente nell'intero impero etiopico. Di fronte all'attivismo della Banca Italiana di Sconto, persino la Banca Commerciale Italiana incomincia a patrocinare una serie di iniziative in colonie. E questo è un evento di rilievo, perché la Banca Commerciale Italiana si era sempre mantenuta discosta dall'epoca del Benadir da ogni intervento in colonie. Finalmente anche la Somalia vide la partecipazione del grande capitale. L'iniziativa più nota è la società agricola Italo-Somala, quella del Duca degli Abruzzi, patrocinata dalla Banca Commerciale. Un ultimo riferimento, persino per l'Angola si prevedeva qualcosa. Fu costituita una compagnia italiana per l'Africa occidentale che, se a Versailles ci fosse stata accordata una parte delle colonie portoghesi, avrebbe dovuto realizzare un programma di colonizzazione nei territori dell'Angola. In conclusione, gran parte delle iniziative economiche costituite negli anni del conflitto naufragarono miseramente. Tuttavia, la guerra diede una spinta notevole alla valorizzazione delle colonie dell'Africa orientale, soprattutto dell'Eritrea, e se fallirono le iniziative più ambiziose, sopravvisse però alla crisi del dopoguerra un cospicuo numero di piccole aziende che si dedicavano ai trasporti, al commercio, alla fabbricazione di beni di consumo e alla raccolta e alla trasformazione delle risorse agricole locali, nelle quali erano spesso coinvolti anche elementi locali, il che contribuì in ultima analisi ad elevarne lo sviluppo economico, come testimoniato dal fatto che negli anni 20 raddoppia la popolazione eritrea, da 300.000 si passa a 600.000. Grazie, scusate per la lunghezza. Dobbiamo ringraziare il dottor Podestà per l'ampia, articolata, ricca e bella relazione che ci ha messo di fronte al problema dello sviluppo dell'iniziativa economica e commerciale italiana, soprattutto in Eritrea, la colonia primigenia, e anche ci dà molte altre suggestioni in ordine alla tendenza di penetrazione altrove, e cioè anche dentro la stessa Etiopia, alla quale guarderà poi in modo risolutivo il ventennio fascista. Grazie quindi, e se qualcuno vuole chiedere la parola per avere informazioni su questo testo, la parola a... Professore, prego. Aber ich stütze mich ein bisschen auf Ihre italienische Kurzfassung. Und es gibt eine Reihe von Problemen, die ich gerne ansprechen möchte. Zum einen, sie haben völlig frühzeit, ich glaube mit vollem Recht, akzentuiert, dass koloniale Aktivität wesentlich gedient hat dem kommerziellen Handel mit den Schifffahrtslinien im Mittelmeer und dann in den Orient. Mich würde interessieren, wie hoch denn ungefähr der Anteil dieses Außenhandels am gesamten italienischen Handel gewesen ist, ob es da irgendwelche Anhaltspunkte gibt, um das quantitativ zu bewerten. Und das Zweite ist, welche Rolle spielen denn die italienischen Besitzungen oder sozusagen Vororte in diesem Prozess, denn das meiste dieses Handels dürfte sich doch wahrscheinlich dann mit englischen, französischen und anderen Territorien abgespielt haben und nicht nur mit italienischen. Das Zweite bezieht sich auf die von Ihnen formulierte These, dass die lombardische Industrie im Zuge des Übergangs zum Schutzzoll in den 70er Jahren wieder in vermehrtem Maße Interesse an kolonialen Unternehmungen gehabt habe. Ich gebe zu, ich glaube das nicht. Denn erstens sind die britischen Territorien niemals mit Schutzzöllen ummauert worden. Und im mittelmeerischen Raum ist es eigentlich dann wirklich in der Tat nur Tunesien und Marokko, was für den italienischen Handel schwieriger zugänglich ist. Und ich bin etwas zweifelhaft, ob dieses damals natürlich gängige Argument ökonomisch Substanz hat. Damit zusammenhängt eine Frage. Sie haben gesprochen davon, dass die Unternehmer Interesse an Rohstoffquellen und Handelsmöglichkeiten in Übersee entwickeln. Aber war es nicht für einen italienischen Unternehmer viel leichter, Baumwolle in Ägypten einzukaufen als in Eritrea, ohne jede Mühe? Und es würde mich natürlich in dem Zusammenhang interessieren, Sie nennen zum Schluss die Zahl von 5,7%, von was übrigens, das ist mir nicht klar. 5,7% der gesamten italienischen Baumwolleinfuhr. Jedenfalls würde mich mal interessieren, wie viel Prozent die italienische Textilindustrie an Baumwolle aus den italienischen Besitzungen und wie viel aus Ägypten bezogen hat. Und ich schätze, das ist so ein Verhältnis von, muss man schätzen, 10 zu 90 oder 5 zu 95. Und dann kommt vielleicht die Sache in Perspektive. Und eines ist ganz grundsätzlich, ich betreibe seit 20 Jahren das Spiel, ökonomische Expansion als Motiv für koloniale Expansion abzulösen von nationalen Grenzen. Ich gehe mal davon aus, dass die Unternehmerschaft an nationalen Grenzen überhaupt nicht so interessiert war. Und dann gibt es ein ganz triviales Argument, dass die Unternehmer aber wussten, Handel in Territorien, in denen man nicht zur Verwaltung direkt oder indirekt zur Kasse gebeten wird, ist rentabler. Mit anderen Worten, Handel in britischen Territorien war vermutlich rentabler als Handel in italienischen. Danke. Forse c'è qualcosa sbagliato. Devo chiedere qualcosa. Si tratta di esportazione di cotone. Esportazione in Africa. In Africa. Dall'Italia? No, dall'Eritrea. No, dai tessuti allora, tessuti. Tessuti di cotone. Tessuti di cotone. Tessuti. Tessuti di cotone italiani in Africa. Ma importavamo cotone dall'Eritrea? No, no, l'importazione, no, io ho parlato di esportazione. Sì, ma dall'Eritrea andava... Esportazione dall'Italia in Eritrea. Di tessuti, manufatti, cioè tessuti. Infatti ho parlato di commercio dall'Italia. Sì, sì, dopo qualche sbaglio. Ma che va bene, la strada Aber ist nicht gleichzeitig Baumwolle in Eritrea angebaut worden? Non lo credo. Che cosa? Non siamo riusciti. No, non siamo riusciti. È sempre stato un sogno, ma come ho detto, la società no, dopo forse pochi qui non anni c'è stato un errore. C'è stato un errore. Gut, dann würde ich die Frage etwas anders formulieren. Welchen Anteil an den Textilausfuhren haben die italienischen Kolonien? Io ho detto che l'Eritrea era il quarto mercato delle esportazioni di cotone italiano dopo Argentina, Impero Turco e Egitto. Al quarto posto, ma lei vuole sapere che sia stato percentuale? Questa è una domanda, ma ci sono delle altre? Sì, dopo, aspetta, andiamo avanti. L'ho detto 5,7%. La prima domanda c'è stata quanto c'è stata la percentuale del commercio fra Italia e le colonie, specialmente Eritrea, del quadro del tutto il commercio d'Italia. Quel periodo storico. Poi la seconda domanda, quelle sono state. Come c'è stato il commercio fra Eritrea e altre colonie degli inglesi oppure anche degli francesi, cioè non commercio fra centro e periferia, ma commercio fra intercoloniale. Sì, non commercio speciale, ma commercio fra le colonie. E poi un'altra domanda, c'è stata perché ci sia stata una svolta nel commercio, questo l'ho capito bene. Sicuramente, professore. Quando si incomincia un interesse per le materie prime, se mi ricordo che lei ha parlato del primo guerra mondiale, non prima. No, io ho parlato che già prima si accenna al problema delle materie prime. Ma quando è incominciando? Dagli anni 80. Dagli anni 80. Risponde, scusa. Alcune precisazioni allora. Io ho parlato di commercio di tessuti italiani in Eritrea, nella zona del Mar Rosso. Le percentuali sono significative, anche se inferiori a quelle per l'Argentina, l'Impero Ottomano e l'Egitto. Esse sono intorno al 5,8-6% per gli anni che vanno dal 1900. Tra 5 e 6 io le faccio la media fra il 1909 e il 1913 è 5,7%. Le esportazioni acquistano vigore, iniziano nel 1905, ma i cotonieri spingono per aumentare dopo la crisi del 1907, che per i cotonieri italiani è stata molto grave. L'industria italiana nei 15 anni precedenti si era meccanizzata molto. Ovviamente una produzione meccanizzata richiede anche un aumento dei mercati di sbocco. E quindi anche l'Eritrea, un mercato come l'Eritrea, poteva essere utile per dislocare una parte significativa della produzione. Tanto più che i prodotti tessili italiani erano di qualità inferiore, per cui non potevano assolutamente competere con i prodotti britannici, francesi o tedeschi sui mercati evoluti. Ecco così che gli agenti dei cotonieri italiani si danno da fare su questi mercati, diciamo così, di secondo grado. Argentina, sfruttando la grande colonia italiana che è presente in questo stato. Impero Ottomano, soprattutto nel Levante. Egitto, sfruttando anche qui una grande colonia italiana. Ed Eritrea. Perché sono clienti di bocca buona. Sono clienti di bocca buona. Cioè vuol dire che accettano prodotti inferiori, vuol dire questo, ecco. Secondo punto, commercio speciale, il commercio fra Italia e madrepatria. Il commercio fra Italia e madrepatria è scarsamente significativo per i primi 30 anni del nostro colonialismo. Incomincia a diventare appena, diciamo così, suscettibile di valore proprio in questi anni alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, ma su cifre sempre estremamente limitate per le esportazioni, se non sbaglio, intorno al 3% con l'insieme delle colonie, mentre le importazioni dalle colonie alla madrepatria sono sempre state, fino alla guerra d'Africa del 35-36, pressoché nulle. Terzo punto, commercio fra l'Eritrea e altri paesi. C'è un commercio di esportazione verso il Sudan anglo-egiziano e basta. E c'è un commercio di importazione da altri. Scarsi o nulli sono i rapporti con altre colonie. I rapporti dell'Eritrea sono con altri paesi europei, Austria e Francia e Gran Bretagna, con la Turchia asiatica e persino con gli Stati Uniti. Una quantità modesta di pelli gregge vengono indirizzate a San Francisco. La Somalia ha il commercio della Somalia, io non vi ho neanche accennato perché sono cifre modestissime, poco più di 1,5 milioni negli anni 10, per cui è veramente ininfluente. Comunque la Somalia ha un commercio modesto con la regione limitrofa britannica, l'Africa orientale britannica, il Kenya, ma sono cifre infinitesimali per le quali non vale neanche la pena discutere. Mi sembra che il professor Momsen non avesse bisogno di altri dati. Ja, schnell versuchen zu übersetzen. Interkolonialen Handel hat es kaum gegeben, außer zwischen Eritrea und Sudan etwas. Hat das, was die Kolonien anbetrifft. Was den Anteil des kolonialen Handels im gesamten Außenhandel Italiens anbetrifft, wenn ich das richtig verstanden habe, ging das von den 80er Jahren bis 1913, waren das zwischen 3% und 5% nur insgesamt. Und was diese 5,7% anbetrifft, die er da auch aufgeführt hat, ihres Ansichts Interessantes und Wichtigste, in der Zusammenfassung aufgeführt werden, durch das folgendermaßen, dass zu sehen, dass nach Außenhandel mit Baumwollprodukten nach Argentinien, der Türkei und Ägypten, Eritrea an der vierten Stelle stand in dem Gesamtexport und davon Gesamtexport von 105,7% nach Eritrea ging. Da sind zwei Punkte noch wichtig dabei, dass erstens durch eine Maschinisierung auch in der Produktion in Italien und eine Überproduktion entstand und Märkte gesucht werden mussten. Insofern solche unwichtigen Märkte wie Eritrea auch für die Italiener wichtig waren. Sie waren aber auch zum zweiten Grunde noch wichtig, weil italienische Baumwollprodukte nicht mit englischen oder deutschen konkurrieren konnten in der Regel und deshalb sich Märkte zweiter Ordnung suchten, Argentinien, Türkei, Ägypten und dann auch Eritrea. Insofern, dass es sozusagen ein Unterentwicklungseffekt auch im gewissen Sinne ist, wenn man so will. Ci sono le due altre. Allora, prego. Herr Schmidt war nicht? Ah, Schmidt und der Dutene. Prego, professore. Okay. Okay. Ein bisschen lauter, ja. Gastarbeiter und Italiener, die im Ausland leben, unter anderem aber auch durch Wertpapierannahmen und dergleichen, gleichsam auf dieser Seite des Kapitals in das Französische, wenn man so will, in einer Art Frachtzone eingebunden haben. Während das Industriekapital, insbesondere auch dadurch, dass Italien ja nach dem Bruch mit Frankreich und durch die Kapitalpolitik und auch durch die Zollpolitik mehr oder weniger in seinem Handelsbereich im Windschatten des deutschen Bündnissystems sich orientiert hat und natürlich auch, dass für Italien zum deutschen Markt gehört, sozusagen Ostskandinavien, teilweise auch Kleinasien, und dass dort das Industriekapital zur Öffnung von Absatzchancen für italienische Industrieprodukte mehr oder weniger auch sich mit dem dort, wo deutsches Kapital gewesen ist, auch die anderen Verantwortung gewirkt hat, sodass wir hier so eine Art zwiespältiges System haben, das gleichsam das Liquidekapital und sozusagen das, was auf den Geldmärkten zählt und wovon die Leute ihre Rente und anderes, also Rentierskapitalismus, mehr oder weniger zu so einer Art französischen Zone gehörte, während das, was für die Industrie und Handel wichtig gewesen ist, sich mehr oder weniger in den deutschen Bündnis gebietet. Ich will einfach nur nachfragen, ob dieses in der großen Skizze wichtig ist, wobei natürlich auch dazugehört, dass Deutsche wie Italiener über Brasilien, über Argentinien, über Chile als Anwohner auch dorthin Exporte und Geldtransfers vorgenommen haben. Die generelle Frage, die dahinter steht, ist, ob in Italien ähnlich wie in Deutschland die Geldanlagen in andere Handelsrichtungen gehen als die interessanten Handelsgebiete. Das ist in einer anderen Version die gleiche Frage, die Herr Monsen schon gestellt hatte, weil eben für den Handel das, was andere schon vorgearbeitet haben und so weiter, sehr viel interessanter ist als das, was der Kapitaldurchführung untersteht. Und diese erste Frage ist mehr oder weniger mit der zweiten beschäftigt, um vielleicht zusammenzugehen. Un po' difficile, sì. Vorrei dire questo, che sia stato, diciamo, l'esportazione del capitale in Italia siano stati due binari, un binario, diciamo, del capitale morto, e questo capitale sia andato nella zona del front, nella zona che è stato dominato dal capitale francese, e l'altro, diciamo così, il capitale, per dirlo in linguaggio marxista, è stato il capitale produttivo, il quale sia andato più nella zona dominata dal capitale tedesco. Che si può parlare di questo? Ma il professor Smith fa riferimento all'esportazione di capitale italiano all'estero? Sì, all'estero, in generale. Quindi fa riferimento per il secondo caso ai Balcani? Se ho capito. Non Balcani, lui ha parlato in generale. In generale. Io vorrei dire questo, discorso di carattere generale. Il capitale italiano, quando partecipa ad investimenti all'estero, lo fa soprattutto in aree particolarmente rischiose, dove si sta verificando in questi anni un contrasto diplomatico fra le varie potenze, lo fa sempre al traino del Ministero degli Esteri italiano. Questo avviene sia per gli investimenti ai quali ho fatto riferimento io per l'Etiopia, avviene per la Libia e avviene anche per i Balcani, dove intorno al 1909 la Banca Commerciale Italiana costituisce assieme a Giuseppe Volpi una serie di iniziative abbastanza interessanti. La cosiddetta compagnia di Antivari, che avrebbe dovuto costruire una ferrovia da Cetinje alla costa, cioè Cetinje alla capitale, la capitale del Montenegro, al quale noi eravamo legati perché la regina Elena era del Montenegro, il monopolio dei tabacchi del Montenegro e la società commerciale d'Oriente, che avrebbe dovuto gestire una partecipazione carbonifera nell'impero ottomano. Tutte queste iniziative sono in perdita la società. Giuseppe Volpi invece acquisirà dei grandissimi redditi. E tutte queste società, la Banca Commerciale Italiana aderisce solo perché Bonaldo Stringer, che è il direttore generale della Banca d'Italia e il Ministero degli Esteri, la sollecita. Perché Otto Gell, l'amministratore della Banca Commerciale, vede come il fumo negli occhi questi investimenti di capitale improduttivi. Diversi sono alcuni investimenti delle nostre banche, principalmente la Banca Commerciale, in talune aree e soli. L'Argentina, dove viene costituita una filiale della Banca Commerciale Italiana, che avrà la funzione di raccogliere le rimesse degli emigranti che dall'Argentina arrivano in Italia. La funzione delle rimesse degli emigranti nell'economia del nostro paese in questi anni è fondamentale perché contribuisce al riequilibrio della bilancia dei pagamenti. Altre iniziative sono in Brasile e in Egitto. Anche in Egitto le nostre banche hanno una serie di filiali. Tutte queste iniziative sono iniziative produttive, non legate alla politica estera. I rapporti commerciali con l'Egitto sono abbastanza importanti perché i cotonieri italiani traggono dall'Egitto materia prima di alta qualità per i tessuti più fini. E poi c'è una colonia italiana molto cospicua in Egitto, di alcune decine di migliaia, soprattutto ad Alessandria d'Egitto. Ecco, sostanzialmente questa è un po' la struttura degli investimenti all'estero del nostro capitalismo. E sono molto modesti. Questo bisogna dire, le cifre globali non oltrepassano poche decine di milioni. Ecco, questo va detto. Soprattutto quelli nell'area africana, ecco, un po' più cospicui sono gli investimenti dei Balcani, ma sì. Ripeto, sono investimenti fatti esclusivamente per coadiuvare l'azione diplomatica, per dire, ci siamo noi, anche noi italiani. Basta. Also, so wie Sie es gesehen haben, Schmidt, es ist nichts gibt diesen gespaltenen Kapitalexport in der Tat, aber etwas anders, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. Es gibt sozusagen einen gelenkten Export, der sich an den außenpolitischen Interessen orientiert und durch das Außenministerium auch induziert wird und über die Banca Commerciale, über den Direktor Stringer, hinweg in den Balkan etwa geht, weil dort politische Interessen Italiens bestehen. Und deshalb gibt es dahin einen gelenkten Export. Also von Tabak und von anderen gesprochen in Montenegro. Und andererseits gibt es sozusagen Produktivexport, der nicht irgendwie sich an diesen unmittelbaren Interessen orientiert, aber der geht nicht in den deutschen Raum rein, sondern der geht nach Argentinien, nach Brasilien und nach Ägypten. Und dort gibt es sozusagen Produktivinvestitionen, dort entstehen Filialen der Bank, an der Banca Commerciale, und die orientieren sich dann auch an den sozusagen Kolonien von Emigrati, von Italienern, die in diesem, natürlich in Argentinien, Brasilien besonders, aber auch in Ägypten sind, und die werden mit einbezogen. Sodass das so, das war eigentlich die, das ist richtig sehr die wesentliche Antwort. Ja, gut. Poi, ich glaube, die... Ja. Ah, sì, ja. Scusa, tu, no, fai te, fai te, poi lui. Poi lui, sì, sì. Forse la mia domanda... Voce. Dei loro prodotti soprattutto. Che sono importantissimi strumenti e canali per la propaganda e la diffusione della conoscenza in Italia delle colonie. Servono, diciamo, a sollecitare fortissimo nell'opinione esposizione l'immaginario che si è che si ha col fascismo invece fortissimo. Also gefragt wird, ob diese Gesellschaft, diese Handelsgesellschaft auch eine Art von kultureller Propaganda oder eben Warenpropaganda auch machen im Lande mit Ausstellungen und Messen. Eben später hat es solche Entwicklungen gegeben und die haben gemündet in der Gründung des Museo Commerciale a Napoli, ja? Handelsmuseum, naja. 17, durante la guerra. 17, während des Krieges. Sì, bello. Sentiamo che facciamo. Lasciamo prendere tutti insieme adesso. Forse è meglio. Sì. Vuole dire lei? Prima lui. Ah, lui, scusa. No. Prego. Senza quattrini, niente treno. Avevano pochi mezzi economici, lo sappiamo. Da Massawa ad Asmara. Entschuldigung, dann habe ich das jetzt missverständlich. Auf jeden Fall eine Cioè, rispondo, c'è ancora qualche domanda? Finito, sì, rispondo. A Esther Capuzzo rispondo, pur non essendomi occupato particolarmente, ho notizia che la Società per il Commercio con le Colonie e la Società Eritrea per le Miniere d'Oro negli anni intorno al 3-4-5 hanno contribuito con l'invio di prodotti locali all'allestimento di qualche mostra coloniale. Senz'altro la mostra di Genova. Ecco, sì, la mostra di Genova, hanno contribuito con i loro prodotti, per esempio la società commerciale ha inviato campioni di cereali eritrei. Dura, ma fra l'altro in quegli anni Ferdinando Martini ottenne dal Parlamento italiano la possibilità di inviare in franchigia in Italia 20.000 quintali di grano eritreo, era una sorta di opera propagandistica, quindi dico, rispondo di sì. Al dottor Affelbach rispondo che la ferrovia è rimasta a 27 km perché non c'erano, lo Stato non aveva i fondi per poterla ampliare. Dirò di più, erano state sospese in questi anni anche le costruzioni ferroviarie all'interno del nostro paese. Il generale Baldissera si dimise proprio perché Crispi aveva rifiutato la costruzione accelerata della ferrovia ad Asmara. Con Barattieri si accordò personalmente con il direttore, si chiamava Bornini, della Società Generale delle Strade Ferrate Meridionali, la più grande compagnia italiana. Bornini avrebbe dovuto far compiere una serie di studi preliminari, ma a livello solo tecnici, per una ferrovia che da Massawa, oltre ad Asmara, arrivasse fino a Cassala. Questo, ben inteso, rimane solo allo stadio di progetto. Fu compiuto da un ingegnere della società un prospetto tecnico e basta. Non vi erano i capitali per costruirlo. Tanto più che poi si rinunciò all'idea di andare a Cassala e si sarebbe invece arrivati Keren e da Guardato. Comunque il governo non avrebbe mai dato i fondi necessari per costruirlo. Perfetto. Also diese Eisenbahn ist nicht gebaut worden, weil kein Geld da war. Wenn ich das kurz zusammenfassen kann, auch in Italien sind in der Ära Giolitti der Eisenbahnweiterbau gestoppt worden, aus demselben Grunde. Schon deshalb schon erst recht in den Kolonien. Und die zweite Antwort war eigentlich auch unzustimmt für Frau Capuzzo zu, dass es solche Ausstellungen in der Tat gegeben hat, wenn auch nur auf regionaler Ebene, solche kolonialen Ausstellungen. Va bene, possiamo sospendere, riprendiamo tra un quarto d'ora. Sì.